nostre, rozze e noiose, aspro ed ingrato il canto. Or se teco di tanto lusingarmi posseo, della tua lira con la maestra mano tempra le argute corde, dolce suono delle tremule note unisci ancora alla modulata tua voce con una che mia gloria può perderti. Alla ricate la cetra a me questo felice incontro, la mia fiamma palesi mi sveli. Rosa virtù.